Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Notizia di questa notte che la ricerca sul vaccino di Oxford per il Covid-19 è stata messa in pausa, o meglio sono stati messi in pausa i test. È un fatto abbastanza normale in un processo di questo genere, però già si intravede qualche rischio di ritardo. Mentre l'Italia, sulla scorta della Francia, sta pensando di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni. Sul fronte politico c'è da segnare il passo avanti di Conte sul MES, il fondo salva stati. Ieri non ha escluso di utilizzarlo, prendendosi subito un mezzo stop da Luigi Di Maio. Ma l'idea alla fin fine è che dopo le regionali ci si possa pensare, e quest'idea torna a farsi strada. Come torna a farsi strada l'idea che l'inizio della scuola possa essere rinviato? Molti istituti stanno chiedendo di rimandare perché non sono pronti, riferisce il Corriere della Sera, tra docenti che mancano e banchi che non ci sono. I riflettori della cronaca sono ancora sull'assassinio di Willy Monteiro Duarte. Gli arrestati negano, ma due testimoni confermano che i picchiatori erano loro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Le 6, 32 minuti e 15 secondi di mercoledì 9 settembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci. Con Peter Bescape in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraff. E voi soprattutto. Che giornata è? Ricca, come avete sentito. Oggi il Corriere della Sera ci apre addirittura, parla di spinte per il rinvio dell'apertura delle scuole che partono dai presidi. Oggi torneremo a parlarne col segretario generale della UIL alle 8.35. Gli chiederemo anche, perché molto se ne è discusso, che responsabilità c'è dei docenti, quale rallentamento è arrivato dai docenti stessi per la riapertura delle scuole, magari anche giustificato da alcune paure, per carità, eh? E però mi fa piacere anche capire cosa ne pensiate voi. Qua ne abbiamo parlato lungamente, come sapete abbiamo fatto una battaglia vera e propria perché le scuole riaprissero il prima possibile. Ebbene, i presidi però dicono: non siamo pronti, non ci sono i banchi, non ci sono gli insegnanti, secondo i sindacati ne mancano 60.000. Che cosa si dovrebbe fare secondo voi? Si dovrebbe rinviare o si dovrebbe mantenere il 14? O, come più modestamente penso io, quest'anno sarebbe stato meglio dare un'interpretazione estensiva del concetto di autonomia scolastica e dire alle singole scuole: avete un range tra il 7 e il 30 settembre, chi può apra prima e chi non riesce apra dopo, punto e basta. E forse sarebbe stato, certo, un po' più confuso, per carità, non dico di no, però forse quest'anno, in questo stato di eccezione, si sarebbe potuto fare. Ditemelo se volete, 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Da cosa iniziamo nel sentire le voci di questa mattina? Ecco, altra questione. Tutti siamo colpiti molto dalla morte, dall'assassinio di Willy Monteiro Duarte. Questo ragazzo di 21 anni che a Colleferro, ormai lo sapete, è intervenuto per difendere un amico che era stato aggredito ed è stato picchiato a morte sul selciato davanti a una pizzeria. tutto si può parlare e oggi se ne parla, è ancora la vicenda vietare le arti marziali violente, tipo quella, tipo l'MMA, le arti marziali miste. Si può parlare, si può fare un po' di sociologia, quella che ho definito un po' brutalmente ieri, sociologia d'accatto, dicendo a questo mondo che privilegia la violenza. Ma posso sapere perché, e non se ne abbia male il presidente del Consiglio Conte, ma perché tutta la politica deve intervenire su un caso di questo genere? Tutta. Sentiamo Conte, va. Quello che voglio dire, ecco, qui come responsabile di governo è: fermiamoci un attimo tutti a riflettere. Fermiamoci a riflettere. Cosa diremo ai nostri figli? Io ho un ragazzo di 13 anni. Che cosa gli dirò? Di non intervenire laddove vedrà una lite domani mattina, domani sera? Cosa diremo? Che messaggio trasmettiamo ai nostri figli? Quali rischi vanno incontro i nostri ragazzi? Io non so. Che poi Conte è solo l'ultimo della serie, perché hanno parlato tutti, ha parlato Salvini, hanno parlato al Partito Democratico, qualcuno ci ha messo in mezzo il razzismo, che non so se sia vero o non sia vero, sinceramente, quello che appare essere un fatto di cronaca, molto semplicemente. Oh, poi ci torneremo sul figlio di Giuseppe Conte, perché c'è un altro audio da ieri sera. Niccolò. Intanto, già che siamo sul tema di cronaca, l'avvocato dei Fratelli Bianchi dice loro respingono le accuse. Abbiamo respinto ogni addebito di quel fatto che è accaduto. Non abbiamo assolutamente detto che eravamo presenti sul posto, ma hanno detto che effettivamente quel ragazzo non è come è stato raccontato dagli altri testimoni. Concretamente poi veniamo dalla cronaca, ci spostiamo un po' sulla politica e sulla politica economica. Ieri sera è stata la serata nel quale Conte è stato accolto dal popolo del PD alla festa dell'Unità, intervistato da Maria Latella e ha parlato anche del fondo Salva Stati. Sentiamolo, va. È un po' la situazione in cui, diciamo, tanti che partecipano anche a questa intrapresa comune suggeriscono all'amministratore delegato, al presidente della società, vai in banca e prenditi questo prestito. E l'amministratore risponde, l'amministratore e il presidente, io e Gualtieri diciamo, beh, fateci verificare un attimo se ne abbiamo bisogno, fateci controllare i flussi di cassa, il quadro di finanza pubblica, societaria, eccetera. Siamo nella stessa condizione. Se abbiamo dei progetti da realizzare, ci sono soldi, serviranno risorse aggiuntive rispetto a quelle preventivate, lo valuteremo tutti insieme e andremo in Parlamento. Non aggiungo altro. Cara Flavia Perina, giornalista, scrive per l'Inchiesta, per La Stampa. Flavia, buongiorno, come stai? Buongiorno, carissimi tutti, molto bene. Eccoci qua. Una discreta apertura. In vista dell'intrapresa comune, come dice il Presidente del Consiglio, è una discreta apertura questa sul MES. Sì, sicuramente ci sono dei ripensamenti, c'è un braccio di ferro in corso all'interno del governo. Io penso che alla fine si troverà la maniera per giustificarne l'utilizzo, anche perché il riaccendersi dell'epidemia crea dei problemi al sistema sanitario. E quei soldi probabilmente potrebbero servire a migliorare l'assistenza sul territorio, anche a venire incontro alle esigenze delle scuole. Io penso ad esempio ai medici scolastici, che sono una figura pressoché scomparsa, ci potrebbero essere le risorse per magari dotare di nuovo le scuole di una sorveglianza sanitaria più efficace. Quindi penso che alla fine ci si arriverà. Resto al paragone dell'amministratore delegato, che è un paragone inconsueto da parte di una figura come Conte, magari se lo aspettate da altri personaggi, è giusto. Sì, te la ricordi, era quella tipica che usava Silvio Berlusconi, quella dell'amministratore delegato. Sì, certo, ha sicuramente ragione, ma non credo che nessun amministratore delegato in genere di fronte a problemi enormi come questi si prende 5, 6, 7 mesi di tempo. Di solito queste analisi dei flussi di cassa e delle necessità vengono fatte in qualsiasi azienda che voglia restare in vita in modo assai più rapido. Sì. Devo dirti questo a parziale giustificazione di questo ritardo. Loro hanno sempre detto, Conte ha sempre detto, vogliamo avere sotto tutto il quadro delle risorse disponibili dall'Europa. Adesso sappiamo, da ieri, dalle scorse ore, sappiamo che l'anticipo del 10% dei fondi del Recovery Fund non sarà possibile averli nel 2020 e quindi questa ipotesi si fa più concreta. Però lo snodo, Flavia, lo sappiamo perfettamente, è tutto politico. Si aspettano le regionali e il referendum e passate regionali e referendum, dai 5 Stelle inizierà ad arrivare un cauto sì all'utilizzo del fondo salva stati, probabile. Bisognerà vedere che cosa succede con le regionali e col referendum. Ovvio. Perché appunto è possibile che la navigazione proceda, diciamo, in modo ordinario, ma è possibile anche no. La drammatizzazione di questa campagna elettorale regionale da parte dei partiti, in pratica tutto il paese è stato fermato da mesi aspettando questa fatidica data, ci dice che per i partiti a voglia che dicono è un voto locale, non avrà conseguenze col governo, sul governo, come stanno tutti quanti ripetendo, compresi anche gli esponenti dell'opposizione. Ah certo, certo. Abbiamo avuto ospite Salvini quando? Ieri, se non vado. Sì, ieri abbiamo avuto ospite. L'ha detto da voi. Sì, ha detto non avrà un impatto sul governo, secondo me perché teme che in Toscana finisca come in Emilia Romagna, cioè siamo avanti e poi prende la botta. Salvini ha imparato perfettamente la lezione dell'Emilia Romagna. In Toscana è meno visibile, fa le sue cose, ma sta evitando di fare ombra alla candidata della Lega in Toscana, che ha fatto una campagna elettorale per se stessa e senza personaggi nazionali sui palchi in modo eccessivo, e ha imparato anche appunto a non creare quel tipo di pathos che si creò per sull'Emilia Romagna, dove sembrava che quel voto fosse la spallata al governo, ed è forse anche per questo che i sondaggi lo danno la Lega praticamente alla pari con la coalizione centrosinistra. E certo, l'altro grande tema, lo diciamo continuamente, è quello della scuola. Oggi, come vi dicevo, il Corriere della Sera, ne parlavamo prima, parla di spinte per il rinvio, addirittura il presidente dell'Associazione Presidi di Roma, Mario Rosconi, voce nota, lo sentiamo spesso qua a Radio 24, dice molti presidi me lo stanno chiedendo perché semplicemente non sono pronti. Vi dicevo poco fa, avremo risentito parlare del figlio di Giuseppe Conte, Niccolò, ed eccolo qua che lo cita, anche qua, ci perdoni il Presidente del Consiglio se qualche sorriso ce lo strappa quest'audio, perché l'idea che ci si rivolga a un tredicenne in questo modo è curiosa. Ho spiegato già mio figlio, ha 13 anni, si chiama Niccolò. Niccolò, guarda, tu tornerai a scuola, tornerai in presenza dopo tanti mesi. È una grande sfida per il paese. Niccolò, non pensare che se dovesse scattare la quarantena il governo papà non ha lavorato bene o la ministra Zolina non ha lavorato bene. Non funziona così. Dobbiamo aprirci a questo scenario. Noi abbiamo predisposto tutte le cautele. Se succederà, si passerà a didattica a distanza, si ritorna alla didattica in presenza. Ma questo, in uno scenario del genere pandemico, dobbiamo darlo per scontato. Niccolò, dobbiamo aprirci a questo scenario. Scusate, smetto di ridere. Cara Flavia, l'altra grande prova, quella che scatta lunedì prossimo, Sì, è una grande prova, però se posso dire, in qualsiasi, io ho tre figli, in qualsiasi anno scolastico io ricordo. Anche tu. Non gli dico mai niente all'apertura della scuola, in genere gli dico cercate di non dimenticarvi il diario a casa e siate precisi, insomma. Gli dicevo quando andavano, adesso sono più grandi, però io non ricordo un anno scolastico in cui la scuola è stata pronta. In qualunque anno scolastico, i giornali, nel mese a ridosso della scuola, dell'apertura della scuola, erano pieni notizie sugli insegnanti che mancavano, le aule che mancavano, la possibilità di doppi turni in alcune aree del paese, discussioni sindacali finite sui concorsi di turno per trovare gli insegnanti di sostegno piuttosto che il personale, i bidelli e quant'altro. È un problema cronico la scuola che non è pronta alla riapertura. Poi ce ne scordiamo per 8 mesi, perché poi la scuola in qualche modo riapre, per 8 mesi nessuno se ne occupa più e l'anno dopo si ripresentano i problemi. L'epidemia ha sommato dei problemi sanitari molto importanti a dei problemi cronici mai affrontati da nessuno. Questa è la verità. Forse sì. Questa poteva essere l'occasione per diciamo fare un punto a capo, per dire ricominciamo da capo, però tutti quanti i soggetti coinvolti nella scuola hanno tirato ciascuno per i propri interessi. Il sindacato ha imposto il rinvio del concorso che doveva portare all'assunzione di nuovi insegnanti, sperando di riuscire a farlo saltare dal tutto in modo da poter assorbire i precari anziché procedere per concorso. I 5 Stelle sono impuntati sul concorso. La questione delle aule è cronicamente irrisolta da secoli, senza che nessuno mai ci abbia messo in qualche modo le mani. Si è depistata l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione dei banchi, che sinceramente a me sembra uno degli elementi più marginali di tutto quanto questo problema. Ci saranno alcune scuole brave con prezzi bravi che riapriranno puntualmente e alcune scuole meno brave, come succede tutti gli anni, che la tireranno per le Assolutamente. E poi si sommano i soliti problemi, quelli che sappiamo, me lo diciamo da giorni, la carenza degli insegnanti all'inizio dell'anno è un classico, la supplentite è un classico. Peggio che peggio, l'assenza di insegnanti di sostegno o l'estrema variabilità della presenza degli insegnanti di sostegno nelle classi, lo dico perché stiamo parlando dei soggetti più deboli, che sono appunto gli studenti con disabilità. Il traffico. Ed eccoci, ancora Giuseppe Conte sul fatto di diminuire la quarantena. È un'ipotesi che sta circolando perché la Francia ci sta pensando, un'ipotesi allo studio, da 14 a 7 giorni. Sentiamolo Conte, va. Qualche paese sta discutendo sulla durata della quarantena. È quello una prospettiva molto importante, perché capite bene che se dovessimo ridurre i giorni della quarantena significherebbe cambiare anche, diminuire dei costi sociali, economici e via discorrendo. Buongiorno ad Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Professor Crisanti, benvenuto, eccoci. Buongiorno, grazie dell'invito. Eccoci, che ne pensa della riduzione della quarantena a 7 giorni? Ma, guardi, la maggior parte delle persone si ammalano dopo 5-6 giorni di essere stata in contatto con una persona infetta, quindi sicuramente un razionale c'è dal punto di vista scientifico. Una percentuale però chiaramente sfugge e quindi bisogna vivere con questo approccio, nel senso che adottiamo una misura che non è sicura al 100%. Però c'è anche da tenere presente che per esempio la Francia oggi ha 10.000 casi, forse abbiamo una cifra molto vicina a 10.000 casi. Se si fa il contact tracing bene, in genere in ogni caso genera 10 contatti, quindi significa che bisogna mettere in quarantena 100.000 persone al giorno. Dopo 14 giorni ce n'hai 1.500.000 in quarantena, chiaramente con, se detto, dei costi sociali e economici rilevanti. Quindi il razionale è quello appunto di diminuire i costi e di, in qualche modo, quindi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di quel che sappiamo della malattia, ci può stare, professor Crisanti, questa riduzione della quarantena? Sì, ci può stare, però ecco, non è a rischio zero, ecco, comunque sì, ci può stare, perché la maggior parte delle persone si ammalano tra il quinto e il sesto giorno. In via precauzionale l'OMS aveva in qualche modo raddoppiato il tempo di incubazione della maggior parte delle persone. Questa, diciamo, è una pratica normale, quella di raddoppiare il tempo di incubazione della maggior parte delle persone, proprio per catturare tutti. Professor Crisanti, lei è stato tra i primi negli ultimi giorni nei quali l'entusiasmo sul vaccino, sull'arrivo del vaccino presto è esploso, ad avvisare, a dire occhio che non è così facile. Abbiamo la notizia di questa notte, di ieri sera, che in questo momento tra l'altro è l'apertura del sito della BBC, che ci dice che il famoso vaccino di Oxford, quello fatto con AstraZeneca, che è quello tra l'altro sul quale punta l'Italia, ha subito uno stop, cioè hanno interrotto i test perché una delle persone sotto test si è ammalata. Non hanno dato dettagli su questo, hanno detto che è abbastanza normale in un procedimento di creazione di un vaccino e di test di un vaccino, e però così siamo, professore, eh? Sì, guardi, è abbastanza normale. Io penso che sia responsabile dare tutti questi messaggi che intercettano le aspettative delle persone. Guardi, fare un vaccino è una cosa complicata. Lei consideri, il vaccino si dà a persone che stanno bene, quindi significa che stanno bene prima e bisogna che stiano bene dopo. Ora, il problema è che noi tutti differiamo, siamo differenti uno dall'altro per sesso, per età, per etnia, per condizioni patologiche sottostanti. Quindi in genere un vaccino, la fase così di valutazione della sicurezza di un vaccino in genere coinvolge circa 100.000 persone, divise appunto in tutti questi gruppi per catturare tutte queste differenze. Quindi è un processo molto complesso, molto lungo, e molto spesso succede esattamente quello che è successo con il vaccino AstraZeneca, cioè si incappa in un gruppo di persone, un individuo che sviluppa degli effetti collaterali, e allora a questo punto ci si ferma e bisogna capire che è successo. Ma questo è un processo lungo, questa è la ragione per cui lo sviluppo di un vaccino dura circa 5 anni. Sono settimane che lo dico. La sua previsione sul vaccino contro il Covid-19, ammesso che riusciamo ad averlo, però insomma, visti gli sforzi, mi pare abbastanza probabile, però anche su questo chiedo lumi a lei, per carità. Guardi, io penso che sia giustificato fare degli sforzi per sviluppare un vaccino, perché è la misura che dal punto di vista costi efficacia è la più conveniente, quindi che dire, io doppierei. No, dico, ammesso che ci si arrivi, il tema era un po' questo, ammesso che ci si arrivi, perché poi non è detto, no, che si riesca ad ottenere, questo così, intendevo. Ecco, stavo proprio per arrivare a dire questo, che i vaccini facili, guardi, sono stati tutti sviluppati, e ci sono ancora vaccini che non è stato possibile sviluppare per varie ragioni. Ecco, come diceva lei, non è detto che sia possibile sviluppare un vaccino. Se ci si arriva, i tempi normali e ottimistici sono dai 3 ai 5 anni. E in questo caso, con questi sforzi così intensi, se ci si riesce, ovviamente? Ma guardi, io penso, guardi, la battuta d'arresto da AstraZeneca è fisiologica e, ecco, diciamo, è normale all'interno di questo processo molto complesso. Penso che non è che una battuta d'arresto, come dire, totale, no? Certo. Di valutazione. Ecco, bisogna capire che questi passaggi sono normali. Ecco, tutto qua. Sì. E questo è Flavia Perina, questo spegne anche un po' di entusiasmo della politica, che ci si è lanciata a pesce su questa storia del vaccino. Anche il solitamente cauto ministro Speranza. Ma sì, la politica era necessario, diciamo, dare un obiettivo e una speranza di totale ritorno alla normalità, per mandare anche dei messaggi rassicuranti all'opinione pubblica. Io questo lo capisco, dopo tanti messaggi confusi sia da parte della scienza sia da parte dell'organizzazione politica, il vaccino è diventata la soluzione palingenetica, ci arriviamo e dopodiché tutto tornerà come prima. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che difficilmente tutto tornerà come prima, e ce ne stiamo accorgendo. Ci sono delle procedure, dei modi di vivere, dei modi di stare insieme che devono essere radicalmente cambiati per un periodo abbastanza lungo, e un po' tutti si devono rassegnare a questa necessità, mentre invece si assiste a una parte della popolazione che in qualche modo non si vuole rassegnare, cioè l'esistenza più diffusa di quello che ha dimostrato la manifestazione di sabato scorso, di chi proprio nega la necessità di proteggersi da questa epidemia, ci dice che anche la politica dovrebbe essere più persuasiva in questa direzione. E forse, professor Crisanti, anche un po' più cauta su questa questione del vaccino. Ma io penso che, guardi, io penso che, l'ho sempre detto, bisogna dire la verità. Adesso, se si fosse detta la verità fin dall'inizio, cioè che noi stiamo investendo tutti questi quattrini con vaccino, e che comunque il vaccino è una cosa complessa, che non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno o in due anni, ma che in genere nell'ipotesi migliore ce n'è stato uno che è stato sviluppato in 3 anni e mezzo, un anno, e in genere ci vogliono 5 anni in più, oggi questa notizia dell'AstraZeneca noi l'avremmo digerita con tutta la calma e con tutta la serenità dovuta, senza dire a... che ne so, un colpo d'arresto, una cosa grave, è una cosa normale. Sì, è normale nello sviluppo di un vaccino. Ecco. La ringrazio. Grazie professor Crisanti, grazie a Flavia, grazie a Flavia Perina e Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia dell'Università di Padova, Flavia Perina, giornalista dell'Inchiesta della Stampa. GR24, ci risentiamo tra un attimo, che poi ho un paio di risposte da dare a qualche ascoltatore, soprattutto sul tema di Willy, della morte, dell'assassinio di Willy Monteiro Duarte. Tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.